Diritto di proprietà. La proprietà privata, consistente nella facoltà di godere e di disporre di un bene, è un diritto quando venga acquistata per mezzo di negozi regolati dall'ordinamento giuridico che ne garantisce il rispetto da parte di terzi. Lo Stato islamocratico riconosce alla proprietà privata un'utile funzione sociale e non interferisce nel diritto di proprietà. Esso interviene quando essa dà luogo allo sfruttamento economico da parte dell'uomo sull'uomo e per motivi di interesse pubblico prevalente su esso, sicché si renda necessario procedere all'espropriazione che deve essere indennizzata in modo equo. Nell'ordinamento islamico è permesso e regolato da precise norme tutto ciò che è di oggettiva utilità e di bene per l'uomo ed è proibito con norme precise e dettagliate tutto ciò che per esso è di oggettivo danno e male. Ogni disposizione ha per sua ratio il rispetto della dignità umana in ogni spazio della sua esistenza terrena. Solo i diritti attribuiti all'uomo dalla legge divina sono oggettivamente diritti dell'uomo. Sul piano economico, la normativa islamica realizza le condizioni di equilibrio tra gli interessi dell'individuo e le esigenze della collettività, e funzione dell'ordinamento islamocratico è la tutela dell'equilibrio tra i diritti dell'individuo e i diritti della collettività, assicurando che ognuno adempia ai propri obblighi come prescritto dalla legge.